Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Si chiama Mammo Risk, è un programma di prevenzione personalizzata in cui un algoritmo valuta il rischio che ha una donna di ammalarsi di tumore alla mammella nei successivi 5 anni. A Obiettivo Salute ne parliamo con la dottoressa Catherine De Pretto, radiologa, senologa dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che ha coordinato il programma. Dottoressa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Dottoressa, questo è un programma che avete realizzato insieme alla LILT. Ci spieghi in che cosa consiste e a che tipo di donne è rivolto? Questo è un programma che è rivolto a tutte le donne di età compresa tra i 40 e i 60 anni e si basa sulla valutazione di 3 fattori di rischio molto noti, già validati scientificamente, che sono la densità mammaria, cioè la quantità di tessuto ghiandolare presente nella mammella, un'anamnesi accurata, quindi uno studio della familiarità della paziente, e i fattori di rischio poligenici. Un fattore di rischio poligenico che è una valutazione genetica che va alla ricerca di polimorfismi genetici che possano aumentare o ridurre il rischio di sviluppare un tumore al seno. MammoRisk cosa fa? Unisce questi 3 fattori di rischio e ci permette di avere un rischio personalizzato della paziente per capire che tipo di prevenzione effettuare per rendere soprattutto la paziente consapevole del proprio rischio e quindi non vivere il problema tumore al seno con un'ansia che può anche condizionarle poi la vita. Potete fare quindi un percorso personalizzato. Sì, il software ci dice esattamente qual è il rischio della paziente, quindi in base a questo noi capiamo che tipo di controlli organizzare per lei, quindi controlli che possono essere annuali, biennali, con o senza ecografia, ovviamente la mammografia è imprescindibile e questo ci permette di capire qual è il percorso migliore. Al momento il progetto, questo programma è partito a Milano e nelle varie sedi LILT, ci auguriamo che si diffonda, si diffonderà, lo chiedo a lei, un po' in tutta Italia? Speriamo di sì, il tumore al seno è un tumore con un'incidenza in costante aumento e questo è sicuramente un dato molto importante, però la mortalità è in costante discesa, quindi è fondamentale sempre di più fare diagnosi precoce. Dottoressa, siamo all'inizio del mese di ottobre, qual è il suo invito alle donne? Qual è il messaggio che vuole dare alle donne in ascolto? Il messaggio alle donne è sicuramente fate prevenzione, fate i controlli, fate la mammografia, proprio perché questo tumore è un tumore molto frequente, colpisce circa 1 donna su 8 nel corso della vita, ma è un tumore curabile. Se riusciamo a fare diagnosi precoce, riusciamo a curarlo e a guarire del tutto. Quindi assolutamente, questo è l'inizio del mese rosa e il messaggio non può che essere andate a fare prevenzione, che è fondamentale. E di prevenzione e di cura di sé continueremo a parlare nella video intervista di oggi, che potete vedere come sempre sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Vi ringrazio, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di aruba.it.